Pane e burro rock and roll, manca 40 secondi alle 7.30. Cosa vi rappresenta che manca in 40 secondi? Spadino, dobbiamo essere precisi. Bisogna spaccare le 7.30. Hai capito? La vedete la luce voi? Io la vedo, c'ho il lampione crepuscolare qui. La vedo la luce, sì. È lì. Quella luce lì. Io la vedo. Yes! Anche voi vedete la luce. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll con l'Ariele Spadino e Frick. Iniziamo la seconda parte con una marea di messaggi al 335 100 7777. Saluti a Mauro, oggi è il compleanno del fratello Claudio, gli diciamo che è molto rock e che gli vuole bene, molto provinciale. Salutiamo. Dobbiamo occuparci dei colletti bianchi, ragazzi. Io però ho una spilza di suonerie rock che non finiscono più. Mi porto un po' avanti, però. Oggi si confessa Marco da Cinesello. Sono un vero e proprio colletto bianco. La mia suoneria è Attitude dei Misfit. Che non passate mai, mannaggia. Hai ragione, Marco. Ti ho mai detto che la suonavo quando ero pischellino? Attitude, so fucking attitude. Avevo pure... come si dice? La catena della bicicletta al collo. Punk, ragazzi. Non so se vale, ma tra le suonerie aziendali rock, mia nipote di 4 anni canta Pane, Burro e Rock and Roll. Sì, funziona, vai. Salutiamo anche, vediamo un po'. Notturno, che vuole una bella strombazzata e ne approfitto per farla a tutti coloro che in questo 15 di gennaio hanno bisogno di un pizzico di fortuna. Il nostro mister trombetta non sbaglia mai. When everybody said about the bed. Ormai forse abbiamo archiviato ufficialmente la pratica festività natalizie. Tuttavia, sì? Mi piacerebbe aprire una nuova cornice ad una grande rubrica che ho qui in testa. Ovvero? Lo strano ma vero. Ah, le ansie in ansia. Esatto. A proposito di festività natalizie. Esatto. Sentite un po' cosa è accaduto in Inghilterra. Sigla! Ah, lei passa subito così a bomba? Ma io ho già lanciato anche la sigla! Sigla! Gran Bretagna, auguri ai multati con invito a pagare. I magistrati inglesi del West Mercia, Derbyshire, hanno inviato un singolare augurio per un felice Natale a tutti i sudditi che nel corso del 2007 hanno ricevuto una multa scordandosi però di pagarla. Nel biglietto d'augurio, di certo originale, era raffigurato un albero di Natale con caminetto acceso e una frase ad effetto: noi non inviamo messaggi di gioia per il Natale ma soltanto ordini d'arresto. Se vuoi passare serenamente la festività ti invitiamo a venire da noi prima che noi veniamo da te. Non si hanno ancora i dati relativi alla percentuale delle persone che ha accettato l'invito, ma di certo in tanti preferiranno rispondere alla cartolina d'auguri. In realtà non è stato detto, ma la polizia inglese l'ha fatto solo per mantenere in vita la cartolina postale, come facevamo noi di Pane, Burro e Rock and Roll, copioni. Esatto, è per questo che ve lo segnaliamo. La polizia inglese, quella soprattutto del Derbyshire, ha capito perfettamente il messaggio. Basta con lo strapotere degli SMS, viva la cartolina postale. I'm so glad. so glad, I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. L'unico dispiacere per aver creato il calendario 2008, l'anno della svolta, e non essere riusciti a infilarci Cream. Effettivamente, ma se ne parlerà magari per il 2009, dovessimo esserci ancora. Se la svolta del 2008 è quella giusta, non è quella sbagliata, e si rifà per il 2009, magari ci infiliamo dentro anche i Cream. Sto parlando del nostro calendario, ma non è di questo che volevo parlarvi. Volevo rituffarmi sui numerosissimi messaggi che arrivano dai colletti bianchi, dagli impiegati all'ascolto, che pur non andando al lavoro col chiodo a torso nudo, con un tatuaggio di tigre sul petto, sono comunque dei veri rocker, e li taniamo con la suoneria del loro cellulare aziendale. Ne spolpo altri perché sennò non finisco più. In diretta arriva l'OP, cellulare aziendale presente, suoneria dei Nickelback intera. Poi, va bene, passo anche questo, non ho il colletto bianco, ma a favore ho la ragazza che ha Rape Me dei Nirvana, Paolo. Andrea ha patentato 699, invece ci confessa che la sua suoneria è il mana mana dei Muppet Show. Secondo voi è rock? Sì, assolutamente sì, caro Andrea. I Muppet Show è rock, Kermit è rock, e anche tutti gli altri, Piggy e il resto della baracca. A proposito di veri rocker, invece, il nostro povero Roberto Fricantoni deve sbancare il lunario un po' così come capita, ci si deve arrangiare. Memory del suo passato da babysitter con DJ Francesco, che ci tengo sempre a sottolineare perché è storia. Roberto Fricantoni ha fatto da babysitter a DJ Francesco, invece qui a Pane, Burro e Rock and Roll lo fa una piccola bambina che risponde al nome di Sofia. Buongiorno signor Frick. Buongiorno dottore. Le lascio Sofia, mi raccomando. Ma stia tranquillo, sono un babysitter diplomato. Sofia, vieni a tavola che è pronto. Non ho fame, Frick. Frick, Sofia. Ma dai, sì che hai fame, devi mangiare per crescere. Non vorrai mica digiunare per fare la velina, eh? Eh no, Flip, se bastasse mangiare per eliminare tutte le veline, proporrei una obeso campagna. Dai, lavati le mani, che è pronto il pollo cucinato per te, Sofia. Flip, sono vegetariana, non mangio carne che un tempo pascolava libera in una fattoria artificiale con il tetto in lamiera. E poi sono Frick. Ma Sofia, non credi di essere un po' troppo piccola per prendere certe decisioni? E tu non credi di essere troppo grande per farti chiamare Frick? Flip, ti voglio bene. Sofia, dovresti contare fino a 10 quando parli, piccolina. Hai ragione, Flip. Facciamo allora che ti voglio bene domani. Beh, non contare così lenta. Give this man a ride, sweet family will die. Kill Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Che esperienza, ci siamo gustate Riders on the Storm dei Doors in rigorosa diretta. Sono le 7:49 minuti primi e questa è Pane, Burro e Rock and Roll. Vi invito a un nuovo viaggio che la redazione mi propone e che io accetto di gran lusso. Spesso e volentieri facciamo gli stupidotti chiedendovi di diventare musicisti rock con la bocca, ma sappiamo benissimo che questa passione che ci lega al rock and roll spesso e volentieri è legata anche a una passione per la musica dal vivo. Sappiamo che molti di voi possiedono uno strumento, chi più chi meno gli sta dietro. Sappiamo che anche quelli che non hanno uno strumento fondamentalmente vorrebbero averlo e vorremmo iniziare in questo 15 di gennaio un nuovo viaggio. Io do il benvenuto sulle frequenze di Pane, Burro e Rock and Roll a Matte. Ciao Matte, buona giornata. Ciao. Tutto bene? Sì, grazie, sì. Allora, benissimo, tiriamo avanti. Ti faccio una piccola presentazione. Matte ha 13 anni, sta andando a scuola, terza media, giusto? Sì, sì, terza media. A che ora attacchi? È alle 8. Alle 8, mannaggia, quindi ti becchiamo proprio sul filo. Oggi giornataccia o no? No, tutto bene. Tutto tranquillo. Che succede? Matte da qualche settimana ha una chitarra elettrica, giusto? Sì, tutto. Ho già un gruppo. Hai già anche un gruppo. Il tutto nasceva perché Matte chiedeva che nome dare al gruppo. Infatti. Non l'avete ancora deciso? No, mi avessi dato una mano. Allora, però passi da bimbo. Tu hai una chitarra. Il gruppo in quanti siete, Matte? Siamo in 5. In 5. Tantissimi, eh. Quindi c'è un chitarrista, un batterista. Un pianista. Un pianista. Un altro chitarrista e il bassista. E il bassista. Il cantante l'avete già deciso? Cantante sì, si è già deciso, siamo in due, si fa un po' di pezzi per uno. Quindi un po' tu chitarrista e l'altro? E l'altro cantante chitarra. Quindi i due chitarristi. Chitarra e voce. Vi palleggiate i due chitarristi. Sì. Senti, cerchiamo di... cioè ci sono delle regole da seguire all'interno della band. Quindi noi vogliamo starti vicino, vogliamo darti un po' di consigli. Già questa cosa, cioè tra i due chitarristi vi siete già messi in chiaro? Cioè io sono quello che faccio gli assoli, tu sei quello che fa la ritmica? Sì, si sono già messi in chiaro. Ma su tutte le canzoni o ve le palleggiate un po' anche quelle? Anche quelle un po' ci si palleggia, ma la maggior parte dovrebbe fare l'altro chitarrista. Che cosa, gli assoli o la ritmica? La ritmica. Ah, quindi gli assoli li fai tu? Può darsi. Stai attento, perché poi si diventa i capi della band. Cioè c'è già il capo della band? No, ancora no. No. Quante prove avete fatto? Quante prove? Si è fatto due prove. Due prove. Dove si prova? Anche questo è un casino, eh? Dove andate a provare? Per ora si è provato a casa di questo mio amico. Ah, di quale? Di quello con la chitarra? Sì, di quell'altro con la chitarra. E poi però forse si fa qualche prova a casa mia. E poi ci si è trovata una sala prove dopo i soldi. Ok, bravo. Siete di Firenze, dico bene? Firenze. Senti, allora se a te non dispiace, noi ogni tanto ti sentiamo così vediamo come funziona questa band. Ok. Quando, quelle due prove che avete fatto, che brani avete provato? Allora, si è provato un po' di brani dei Beatles, di Bob Dylan, queste cose qui. Beatles, cosa mi avete scelto, Matte? Yesterday, Jude e basta. No, quindi romanticissimi. Sì. Avete iniziato, perché volete cuccare le ragazzine, ovviamente. Anche. Cioè, la sai questa cosa che la band si fa solo per cuccare le sbarbe? Certo. Mica perché ti piace suonare. No. Hai capito? Vedo che Matte è già sulla strada decisamente giusta. Di Dylan invece cosa avete scelto? Abbiamo scelto una in Avestore, anche se è talentone. Siete sul siete un po' troppo sul romantico lì, eh? No, però si è fatto i show di Jimmy. Ecco. Però e siamo poi... sui classici, ottima scelta. E poi si è fatto una canzone noi e nostra. Sì. E si è fatta poi questa chitarrista ne ha fatto un'altra, io ne ho fatte altre due. Però adesso Matte, però un'altra piccola regola. Vediamo di non esagerare. Avete fatto due prove e già mi state componendo i pezzi? Eh sì. Eh beh, ma tutto sommato, se lo scegliete, potete anche farlo. Mentre ti devo tirare le orecchie, perché in fuori onda loro non l'hanno sentito, ma io ti ho chiesto che pezzi fate e tu hai detto no, boh, diteceli voi. Che genere di musica può andare meglio ora? Ma tu sei un artista, devi sceglierlo tu. Cioè, sei tu che imponi a chi verrà a vederti quello che vuoi scegliere. Invece ha scelto una via di mezzo tra rock classic e rock shock. Sì, potrebbe essere un'ottima idea. Che no, rock shock. Il rock shock era quello che andava su Rock FM fino a un po' di anni fa. La novità, intendi? Sì, può andar bene. Mentre prima di lasciarti andare, che poi mi entri a scuola, per il nome, noi se vuoi ti diamo una mano, ma ci devi dare delle dritte, cioè. C'è qualche idea nella band? Non so. Nome inglese, nome italiano? Sì, inglese. Il The iniziale ce lo mettiamo o no? Tipo The Blues Brothers, The Jimmy no, ma era per dire, ci mettiamo l'articolo anche. Sì. Magari. Allora, Matte, ci risentiamo in settimana. Ok, ho trovato il mio nome. Guarda, ci mettiamo a cercarlo subito. Quando è che avete le prove in questi giorni? Il fine settimana. Fine settimana, quindi dai, magari ci sentiamo ancora in settimana che organizziamo un po' le cose e vedo se i radioascoltatori propongono dei nomi. Ok? Buona giornata. Ciao. Mi fighe, ciao. Ciao. We'll be right back. Pronto? Buongiorno signora, telefoniamo da una radio di Milano per chiedere se lei ascolta la radio. Io l'ascolto, le volte sono molto buone, le volte sono che non vado niente. Ho capito. Lei per caso conosce una radio di Milano che si chiama Rock FM? No. Ho capito. Allora non le chiedo. Non conosco perché io non è che mi occupo tanto. Io sono un po' anziana. Sì. E allora questa qui è meglio un giovane. Sì, ma la sento molto sveglia, signora. Allora le chiedo una cortesia. Sì, la mia età, grazie a Dio, non farei cambio ancora con un giovane. Signora, posso chiedere, mi permetto, se vuole rispondermi, solo se vuole. Quanti anni ha? Io? Sì, scusi. No, sono un po' maleducato. Provi a indovinare. Provi a indovinare. Allora, c'è qui con me in regia anche Ariel. Buongiorno. Il DJ Ariel. Secondo me, signora, ne ha 70. 70? No, secondo me ne ha 82. Va bene. C'è una persona vicino a lei.